Gang gang, dark dark, Parex baby. Triplo zatto, Roma centro. Sick look, sick look. Sick look, sick look. Ho chiesto a mia madre 20 euro. Me ne ha dati 30. Parex baby, mandrà che sono diventati 100. 200, 300, 400, un po' le mezzo. Ho chiamato i due amiche e li ho spesi la sera stessa. Ho 5 grammi in palla e me la sento molto gangsta. Macchine volanti come GTA San Andreas. Pensi di stare alto, allora sparerò il tuo ceppo. Sembro Manny Pacquiao fumando tutta starba. Casa, oh mio Dio, porca troia. Popstar come Madonna, lago di Pasqua in volta. Cazzo, siamo in 30 sopra il palco. Siamo in 30 giù in piazza. Siamo in 30 su a casa che sto bevendo Malibu. Fumo sei blunt, poi non parlo più. Il mio sangue è di colore blu. Necros come grande puffo, sta volando alto nel cielo, non so se mi vedi. Metto l'iPhone in modalità aerea, tutti i bescheletti dark. Alzano sulle carne quando entro, questa tipa sta fuori di testa. Mi succhia il cazzo, dice saldi Nutella. Swag, in giro su una Mercedes Benz. Questo è rock and roll, non rap. Rest in peace come i Megadeth. DPG, 777, boy band, gang bang. Ti fotto la donna e dopo mi scuso. Tuo figlio si chiamerà Perks Baby Junior. Stesa sul letto mi ha detto vieni qua da sola. Chiamo baby mamma, lei mi chiama papi ciulo. Ho chiesto a mia madre 20 euro, me ne ha dati 30. Perks Baby mandrà che sono diventati 100. 200, 300, 400, un po' le mezzo. Ho chiamato i due amiche e li ho spesi la sera stessa. Ho 5 grammi in palla e me la sento molto gangsta. Macchine volanti come GTA San Andreas. Pensi di stare alto, allora sparerò il tuo ceppo. Sembro Manny Pacquiao fumando tutta starba. Ehi, droga, in casa mescolare cose. Cosa? Coca, posso scopare la tua troia. Soda, sai che non bevo Fanta sporca. Foto, tutti vogliono fare foto. La tua tipa mi sta presso. Vieni a prenderla, 5 kg in casa. Non da vendere, ciabatte, Gucci, flip flop. Pezzi in tasca, ping pong. Noi siamo la Apple, tu sei uno stupido Windows. In alto sulla luna, senza soldi non scendo. Se non è per un chilo, non mi sposto dal centro. La tua puttana mi ferma, troia adesso proprio no, no. La mia ragazza vuole che non litigo. Il mio contatto vuole che mi sbrigo. 3000 al mese senza muovere un dito. Vestito rosa penso di essere Jigglypuff. Fiammi sul polso come un motociclista.